Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Questa sera torniamo su un tema di cui ci siamo già occupati gli anni scorsi. Parliamo del progetto alla base di Bion, azienda nata pochi anni fa che tra l'altro un mese fa si è quotata con un successo straordinario. Il titolo ha fatto più 120% e sta anche mantenendo quei valori. Parliamo di una ricerca delle più significative, di quelle che promettono il maggiore impatto nel mondo per quanto concerne la sostituzione dei polimeri, dei materiali, delle materie plastiche di cui facciamo largo uso con nuovi materiali altamente sostenibili. Allora ci fa piacere fare il punto della situazione con Marco Astorri, amministratore delegato di Bion, da cui ci facciamo spiegare tutto. Buonasera Astorri, bentornato. Buonasera. Allora, intanto ci ricordi brevemente, insomma, il nocciolo della vostra innovazione. Abbiamo scoperto che batteri assolutamente non patogeni, quindi amici dell'uomo, se opportunamente selezionati in maniera naturale, cibandosi di fonti di carbonio di scarto, nel nostro caso melasso di barbabietola, di canna da zucchero o anche glicerolo, possono produrre in 30-40 ore una riserva di energia interna. Per noi esseri umani, ad esempio, il grasso è una riserva di energia. Sì. Per questi batteri è un poliestere totalmente naturale, esattamente con le stesse caratteristiche tecnico-fisiche del poliestere ottenuto dal petrolio. Quindi la plastica, di fatto, esiste da milioni di anni e le fanno i batteri. Ok, insomma, questi batteri ingrassano mettendo su plastica sostanzialmente. Esatto. Non solo questa plastica è di origine biologica, questo le conferisce delle particolari proprietà di biodegradabilità. Esattamente, perché essendo fatto dalla natura, ovviamente la natura prevede che possa essere anche biodegradato. Ci sono tanti altri batteri nel mondo, in ogni latitudine e longitudine, nell'acqua, nel terreno, che potendo attaccare questa nuova plastica fatta da essi stessi, dai batteri, poi di fatto la vanno a riassorbire, quindi la vanno di fatto a mangiare. Ecco, la parola d'ordine che dobbiamo imparare a ricordarci per il futuro è polidrossialcanoati, un po' complicato, ma insomma è questo l'ingrediente fondamentale, se ho capito bene, no? Esatto. Di tutti i vostri polimeri. Ecco, allora voi prendete questi materiali, li pucciate in acqua di fiume o di mare, dove ci sono appunto degli altri microorganismi che considerano questi polidrossialcanoati alla stregua della cioccolata, sostanzialmente. Sì. E quanto ci mettono, non so, a far sparire, immaginiamo, una bottiglia fatta di questo materiale? Allora, due precisazioni. Innanzitutto la plastica che viene fatta, il biopolimero, non è idrosolubile, quindi non si scioglie nell'acqua, viene mangiato di fatto da altri batteri. I test, quindi le certificazioni a livello mondiale che tutte le case che vogliono produrre biopolimeri devono affrontare, prevedono che l'elemento in polvere, cioè prima che venga fatto l'oggetto, debba biodegradarsi assolutamente entro i 40 giorni ed è quello che fa il nostro biopolimero. Ovviamente un oggetto, un paraurti come stiamo facendo adesso, certo, o uno spazzolino da denti o un occhiale ci metterà più tempo. Certo. La cosa importante è che l'elemento base, cioè quello che costituisce l'oggetto, è certificato che si biodegrada in natura, in terreno e in acqua in 40 giorni. Questa è la grande innovazione di questo biopolimero. Ecco, che tipi di polimeri voi oggi producete? Perché, come dire, chi non è addetto ai lavori chiama tutto plastica, ma sono una quantità di materiali molto diversi. Certo, Bion oggi riesce a replicare tantissimi gradi di prodotti diversi, quindi tantissimi polimeri, essendo una base di poliestere, quindi riproduciamo tantissimi polipropileni, tantissimi polietileni, molti policarbonati, molti polistireni, e quindi siamo solo all'inizio dello sviluppo di questa bioplastica che può sostituire la plastica fatta dal petrolio. E la cosa incredibile è che riesce a volte addirittura a migliorare le caratteristiche tecniche della plastica proveniente. Ecco. Ecco, allora, quali sono a questo punto le sfide che vi restano da affrontare? Per esempio, voi producete questi biopolimeri a partire da delle coltivazioni zuccherine, che però spesso sono anche coltivazioni intensive. State lavorando sulla possibilità di dare impasto a questi batteri anche altre parti della pianta, cellulosa, lignina? Fin dall'inizio noi abbiamo scelto di non utilizzare cibo umano, e quindi i nostri sono veramente scarti, nel senso che sono prodotti che di fatto rappresentano un problema nel ciclo agricolo. Okay. Per esempio negli impianti di depurazione crescono questi batteri e poi in realtà vanno smaltiti. Che cosa resta alla fine del processo di produzione, oltre alla plastica? Uno dei nostri primi patent già pubblicato, visibile, è stato proprio sul fatto di riutilizzare quello che rimane nel momento in cui ho estratto il polidrossilocanoato. Tenga presente che all'interno del batterio l'89-95% diventa tutto biopolimero, quindi quella piccola frazione che rimane dei grassoni, insomma, esatto, non faccio altro che recuperarla e darla da mangiare di nuovo nella nuova fermentazione, quindi ho veramente un impatto basso a livello ambientale. Grazie Marco Astorri. Grazie a te. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì. Audi è innovazione. Scopri i protagonisti e le loro idee su audiinnovativethinking.it.